attenzione, il canale 10, c'è qualcuno. Chi è avanti? Ciao, Tartalino. Beh, già ne do più whisky. E all'ombra, e te sei paziente? Mi sono rientrato adesso, sono andato a vedere un frigo, perché il mio si è completamente sfasciato e me lo devo comprare. Il giorno 5 dice che arrivano, che li hanno tutti finiti. Che filo? Frigo, frigorifero, frigidaire. Ah, ho capito, filo, io pensavo filo dell'apparato, qualche cosa del genere. No, no, il frigorifero si è sfasciato. Si sono marcite le cerniere delle porte, dove ci sono le cerniere delle porte? Siccome c'ha due porte perché c'ha il congelatore a cassetti, è grande il mio. E me lo devo comprare così, ugualmente. E stavo guardando, sono andato, però dice che gli arrivano tutti, perché li ha finiti tutti. Quelli di esposizione non ti miragini, a chi avvirani, se non mi rubiglienti. Cosa ti stavo dicendo? Ma non c'è solo un posto solo, no? Basta girare e guardare, ce ne sono di possibile nei frigoriferi. Sì, ne ho girato due, ne ho girato, ma si non hanno, non venuto arrivare. Il giorno 5 bisogna aspettare che arrivino, il giorno 5 vado e me lo compro. Cosa vuoi ti dica? Così ho anche più soldi, ma lo prendo come lo voglio io. Che intanto il giorno 1 ritiro la pensione, quindi con quelli che ho e quelli che aggiungo me lo prendo come si deve. E quanto ce l'avevi da moto questo frigo? Un bel po', l'abbiamo anche caricato due o tre volte, infatti va a valvola, va chissà mica a dirlo io, ma lo sicuro, quando giro lampo, mi dirò la valvola e la lampadina di Renzo. Vabbè, se ha fatto la sua vita, sta lì, bisogna comprarlo e boh, non vedo da lì va. Ma non è che ha durato molto, 10 anni avrà durato, non di più. E io ce l'ho di più di 10 anni. Perché 6 anni, sì, ce l'ho di più di 10 anni. Io sono sposato 12 anni, non lo so se c'ha 12 anni magari, però si sono marcite, dove ci sono le cerniere, si è marcito lì, e cosa vai? Si vede un papà e foot. Ormai non tengono più e quindi non chiudono bene le porte. E quindi di conseguenza non raffredda bene. Mi pare a me. Cazzo, era un mostro, raffreddava veramente bene, eppure è perché si è marcito lì dove c'è la cerniera della porta, perché sono collegate, no? La porta di sopra con la porta di sotto. Ho capito, sostituirla non fa. No, è marcito, cosa sostituisci già? Si è marcito lì. Nemmeno facendo una modifica, niente, non fa. E se no, vabbè, già ce ne sono, c'è Media World, c'è città, dove c'è la città mercato, lì, ce ne sono di posti da vedere dove ce li hanno, ma sicuramente lo trovi, se ti metti a girare lo trovi. Sì che lo trovo, però volevo aspettare al giorno 1 io che ritiro, così c'ho più soldi, perché se costa di più, io adesso c'ho solo 422, però io se costa di più come fai? No, non ce l'ho presente, io c'ho quanto costi, no? Io c'ho di quelli grandi, di quelli proprio grandi, che c'hanno, invece che avere il cassetto, c'hanno la porta sopra e sotto, ed è bello grande, ambroso proprio di quelli grandi. Ce l'avevo incastonato nella cucina, poi praticamente si è rovinato, gli avevo cambiato il motore e ho fatto una cazzata, ci ho speso un medico a cambiare il motore e poi dopo un po' di tempo si è rovinato di nuovo, quindi me l'ho preso lì, ho comprato dei cosi da bricco di quei ripiani in legno, li ho tutti rivestiti con la carta quella che sembra legno e gli ho fatto praticamente una dispensa. Sì, ho capito, anche io ce l'ho così il frigo, ce l'ho con due sportelli, uno è congelatore e l'altro è frigo, Ed è mannolo mio. È più alto, più di 2 metri alto. Già ci vogliono quelli, perché poi se non c'è il posto, io ci avevo anche il pozzetto e poi vabbè non ce l'ho più adesso, però c'era anche il pozzetto a fianco, ma gusumavano, io mamma mia, avevano i 2 attaccati per 2 cazzate che ci butti dentro. E infatti va bene il frigo grande così come ce l'ho io, adesso in più sono quelli che consumano poco anche. Adesso il più basso è la G e quelli che erano là era la F e il più basso che consuma non mi... Adesso hanno cambiato anche gli affari, quelli A++ mi... adesso si chiamano F. Mica ti stava dicendo qualcosa, Natale, sentito. Chi è che mi ha detto cosa? Al mercatino delle pulci hai potuto andare. Al mercatino delle pulci? Perché li ritirano quando falliscono i negozi, capito? E dove però? Ne so che assai un via. Dove c'è l'Ocean Natale? No, di fronte. Praticamente tu entri per andare a Ocean e di fronte proprio all'entrata di Ocean c'è il mercatino delle pulci. C'hanno lavatrici, frigoriferi, tutta quella roba lì. E bisogna avere saboni però. Allora, ultimamente ci avevano Whirlpool come lavatrice, siccome la Whirlpool ha fallito, l'hanno chiusa, quindi hanno preso tutto lo stock di lavatrici, e solo c'era la lavatrice Whirlpool e c'era roba di 15 anni. E già lo so che erano roba buona quella, e indesi te candi mi Whirlpool, cosa ti grido? Roba furata! No, cavolo, se li scoprono poi un macello, che c'è roba? No, che la comprano, fanno, comprano questi stock quando vanno in fallimento i negozi, le fabbriche e cose, si comprano gli stock, avevano comprato anche dei divani molto belli, 150 euro un divano in pelle, ma bello veramente, a 3 posti. Figurati, un tavolo mi serve a me, perché questo ce lo voglio buttare, lo voglio rettangolare, tondo non mi piace. Beh, gente mala. Poi tu. Ciao, Antu. Ui, buonasera. Ma ah, vero siete? E a vero siamo, perché lei nulla da dire ha. A vero siete? Ehi. E allora, tutto a posto? Hola. Tutto a posto da mettere a posto. E beh, Antu, quando la devi dare la guida? Sì, sono la cappella aperta, accanto a 13, accanto a 12. Allora sei un ciappino, sì, cazzo. Non sono un ciappino, è che hanno chiuso in per le ferie e quindi ho dovuto aspettare. È meglio farle tutte le guide che me. Ciappa, l'unica cosa che devi comprendere bene è rotta tu, perché poi con me cosa non c'è problema. Ha detto, come spunti tu, altri miei allievi non ci spuntano manco per le balle, mi ha detto. Perché guidi anche bene. Però devi capire la rotatoria. La precedenza a destra, Antu, ricordati la destra. La precedenza a destra. Quello che viene da destra ha la precedenza. Vabbè, mi pare il burubio, Natale, non so se bucarotto, no. Lo so che la precedenza è a destra. Tu, Antu, quando vedi macchine arrivano a destra, accelera forte e trembale. Vai, tu drogato, cosa dai consigli a Antonio che lo fa uscire bocciato? Poi non sai guidare, tu sai guidare solo il motorino, cosa stai dicendo? Il motorino 1200 di cilindrata però. Buonasera a tutti, vi sto ascoltando che sto facendo palamiti. Ciao. Razzucci. A questo Savirio, non lo ferma nessuno a Savirio, vero Savirio? Sì, però bisogna stare ben attenti, altro che. Non è un gioco uno guida la macchina. Presente c'è la rotatoria che c'è lì, vicino a me. Quella per andare via Lomberto, per ritornare al ponte e per andare in Corso Trinità. Ce l'hai presente? Quando tu sei... verso per andare verso il ponte, diciamo. Vabbè. Lì c'ha la precedenza a tu. Quelli che scendono, tipo trane e macchine, non hanno la precedenza perché tu vieni da destra. Dalla tua destra hai la precedenza. Infatti se tu non ti ci fermano. Capa, ve lo comprendiamo, beh. Fate quello che vuole, fate. Beh Gianni, tuo figlio, quanto ne ha fatto? Anto, è lo stesso problema tuo, praticamente hanno chiuso la scuola guida, tutta agosto, adesso dovrebbe riprendere a settembre. No, no, le guide sono già riprese. Dì di andare, di prenotarsi. Cioè perlomeno in via Zaffarino hanno già ripreso. Ma dipende sempre da come si fanno le fili, c'è quello che se ne fa tutto il mese, c'è quello che se ne fa 15 giorni. Dipende, sono privati quindi. Magari la motorizzazione avrà già ripreso, però loro riprendono a settembre. E non ne ha fatto nessuno perché io non sono in condizione di fare di scuola guida, sono male, non riesco manco, ma lasciamo perdere, va. Non le posso fare perché ho già 65 anni, capito? Non ne le posso fare, se no Antonio gliel'avrei fatta io la scuola di guida anche a tuo figlio. Poi con la macchina mia viene bene perché è diesel. No, a me non me la fotte in onda, uso bene il benzina, il diesel, quindi non ho nessun tipo di problema. Lui ha fatto 2 ore e mezza con Roberto l'altro giorno, c'ha tutte le patenti lui, con la strada delle bombole l'ho fatto. E ho capito, e anche io avevo tutte le patenti, adesso ho solo la B, quella per la macchina, perché me le ho fatte prendere, me le ho fatte tu, cosa me ne faccio? Se non le uso, poi tocca spendere un sacco di soldi, allora me le ho fatta declassare la patente, ho solo quella della macchina. Però dice che a 65 anni non ne puoi fare più scuola guida, sennò gli attiravi un vattan tu. Più quella legge era salì. Sì, no, è proprio quella, 65 anni non ce l'ho più. Devi avere le PIM, ce le avete le PIM magnetiche, le avete prese? No, non ne abbiamo di quelle lì, io non sono principiante, no. Il principiante ce la deve attaccare quella lì. No, sto dicendo a Gianni che gli deve... Ma fa prendergli da internet, come ho fatto io. Ho comprato quelle magnetiche, capito? Che va meglio. E altro, ma io non ne posso fare, non posso muovere la gamba, ce l'ho bloccata, capito? Vabbè, devi guidare dove? A cosa c'entra? Non posso prendere la macchina, capito? Niente, se la prendo solo per cose necessarie, non ce la faccio, capito? Devo stare sempre in una posizione e non ce la faccio. Tu non capisci com'è, ma io sono tutta la notte che non dormo, sono già mesi e mesi che non sto dormendo dai dolori. E la mamma non vorrebbe fare? La mamma gli aveva i vasi, se gliele vuole fare, lei dice che non ce la sente, se gliele vuole fare già gliele può fare. Ma io non posso, io non ce la faccio. Non mi voglio mettere altri grattacapi, già ne ho abbastanza, sto facendo lastre, questo, quell'altro, adesso devo andare a fare la risonanza magnetica, ma non si acciappa un attimino il cup libero, sempre occupato. Vabbè. No, io già sono tranquillo, capito, ma magari Ed non ha mai visto macchina, quindi è un casino, falli così già. Guarda che comunque le guide da me sono sempre la stessa azienda, sempre da loro, da me comunque hanno aperto, solo per le guide hanno aperto, capito? Falle fare qualcuno a scuola guida, poi gliela fai tu, sei sicuro gliela fai fare tu, perché se non è sicuro la gabiliti bisogna susso. No, già la sta facendo con un amico suo, la sta facendo un amico suo ogni tanto. Ah. Poi c'ha 12 guide pagate, quindi deve fare quelle prima. Che è con pagante? Lui ce le ha pagate, perché io le ho pagato tutto, quando sono andato le ho pagato tutto. Cioè, proprio glielo voglio dire questa cosa. Che cosa? No, questa cosa delle guide. Cosa, Anto? Non ho capito. No, perché non mi ha fatto un pacchetto? Cosa pacchetto? Devi pagare un tanto a guida, devi pagare. Cioè io gli ho dato tutti i soldi a Marco e Marco piano piano glieli sta dando, ogni guida che fa glieli dà. Come faccio io? Sì, così fa, perché è lo stesso è. E allora, Edo non è la Formula 1, è via Pascoli, io non so cosa da, da fare, non so Eddie, non so Secchi, non so Eddie, so, solo che giù c'è il fratello, c'è, cioè, no, Rubabu, e su è dove, è Andrea. Ho capito. Non c'è più quella autoscuola 2000, come cavolo si chiamava, via, dove era? Via Zanfarino, mi pare che fosse. No, non è via Zanfarino, che via era? C'era quella autoscuola, scuola guida 2000, mi pare. No, in via Zanfarino ci sono loro. Ci sono. Ma da tanti anni però. E poi c'è... Comunque guarda, informati bene che le guide io, l'ho fatta oggi una, ma penso che sia la Matesingo, non fanno più la teoria, capito? La teoria si riprende a settembre. Penso che sia la Matesingo pure in via Pascoli, non lo so. La teoria se ne ha dimenticato per la data, deve dare la guida e buffa. Speriamo che passi, perché 12 guide dice che non bastano, che se non basta, per forza devono bastare. No, già, devi stare ben attento, te lo dico per cosa, non è solo a guidarlo, devi stare attento alle rotatugli, un bel, perché praticamente devi abituarti proprio come ti dicono loro, poi bisogna avere come guida, non lo so io, perché guarda, fidati, è un casino, te lo sto dicendo, è un casino veramente. Tanto ho fatto 30 anni di autista, non lo gioco. Non c'è problema. Lo so, mi metto anch'io in mezzo al traffico, so com'è, c'è gente che non rispetta i segnali, devi stare più attento agli altri di te. Ma sai cosa mi hanno fatto oggi? Meno male che me ne sono accorto subito, a me lo buglione, cazzo, sono usciti senza guardare. Cazzo, da via Carlo Felice sopra. Cazzo, riuscì da massa che su me. Cazzo, devo stare attento anche per gli altri, non solo per me. Tu lo sai benissimo. È una voce di Nanni Batto di fronte. Io ho visto una scena una volta, uno che tu eri con un furgone e te l'ha fatto brutto davanti a me. Tu lo sai benissimo di cosa sto parlando. Cazzo, devi stare attento qua. È un casino qua, ti giuro, è un casino vero. Anto, ma poi una volta che tu fai l'abitudine alla guida, lo fai distinto, capito? Lo fai distinto a stare attento. Stai a guardare da tutte le parti, eccetera, senza nemmeno che te lo metti in testa, lo fai proprio distinto, capito? Avanti la tagliata. Oggi due si sono scontrati davanti a me, li ho scansati per miracolo. Luca Pusanto, Michele Andendi da Conforrama, Mirandendi, e chi mi si sono tutti cazzo, e un moglie di 70 cagata chissà come sta più la situazione, li ho schivati per miracolo qua. No, guarda, sono una massa di ignoranti, sono veramente, no, non rispettano la distanza di sicurezza. Guarda, tutti noi, anche il mio titolare, tiene la distanza, tiene, perché tanto lo sai, se esce una frenata non vi dà mai da bella frenata, li tiene lontani, li tiene, cioè perlomeno a me mi hanno abituato a guidare così anche, ed è una cosa buona che non mi bonghia a coda a nessuno, non bisogna mai stare a coda a nessuno, perché poi non ce la fa a frenare, a voi di cute. Cioè, non vedi niente che non capisce un cazzo a me. Infatti, la prima cosa è la distanza di sicurezza, tu. Non ti puni mai in coda a nessuno, a chi cazzo si frena di colpo di cudi. Era qui per Toria, no, che l'hai tamponato. Sì, no, bisogna, la gara andà. Non bisogna mai stare vicino, che cazzo faccia a parecchio? E vabbè, una volta che tu prendi la patente stai attento e come hanno fatto tutti, dai, non c'è problema. Vabbè, devi stare attento, non vedi niente che... Ma un gambaromento già, e tu lo sai bene. C'ha la testa al vento, non guardano niente, non ne ha futti nulla. C'era l'amico di Marco, erano insieme, e si aveva comprato appena la macchina. nuova nuova. Adesso questo qui ha preso, non l'ha visto pure, l'ha tamponata da rito, non ce l'ha fatta frenare, ecco tu, la tamponata era dovuta cambiare, la macchina non ne serviva più niente. Ma che stanno attaccati le balle, sciatene, a distanza di sicurezza, perché c'è, è lontano dalle macchine, non sta attaccando, e vorrei che quando freni non ti chiudi a lungo, cioè, oppure che te la puoi tenere un telefonino. Ma questo stava andando a Sentino, Marco, con l'amico, capito? Stava andando a Sentino, quindi questo qui era anche veloce. Ha dato un bel gol, poi meno male che non gli ha fatto male. Già lo so. Perché te l'ho detto, hanno quel vizio, hanno. E non ne ha voluto più di macchina, perché ha detto che non ne voleva macchina aggiustata, lui ce l'aveva nuova, l'ha voluta di nuovo nuova. Quella lì l'ha versata, se l'ha presa nuova. Vabbè, è una sua scelta, è una sua scelta e ha fatto bene magari. Se te la fanno bene non si vede nulla, però è una sua scelta. È giusto che sia così. Antonio, se mi ha acconsato, è una macchina di 2 mesi, da Consi, a Vai, bisogna vedere come si dirà a Vasili. È sempre aggiustata, non è mai come una macchina normale, ha fatto bene, ce l'ha ricomprata, ci ha preso i soldi dell'assicurazione e ce l'ha ripresa nuova, ce l'ha presa uguale, nuova. Beh certo, ha fatto bene, se vanti da digitare le balle, cazzo, cioè, andando tranquillo, cazzo, la gente te ne piomba, in alto. Ma l'avete vista la nuova Dacia, quanto è bella, cazzo? Non pensavo che facesse macchine così belle la Dacia, veramente è bella la nuova Dacia. Ma stanno dicendo che c'hanno qualche problemino, vediamo a me. Non lo so, guarda, io so che la Dacia c'ha motore Renault e che va benissimo, perché c'è, adesso non so queste nuove, ma il tipo vecchio ce l'ha un amico mio, Natali, hai capito chi ce l'ha? Ce l'ha Antonio, il vice direttore di quella cosa là, ce l'ha Antonio, ce l'ha e va benissimo la macchina, non le ha mai dato problemi, ce l'ha già un 6 o 7 anni. Quindi ho capito chi è. Comunque questi istruttori di scuola guida non mi piace ne va nulla a me. Addirittura Angelo, mio fratello, gliel'ho dovuto spiegare io come svoltare col pullman, perché l'istruttore non c'è riuscito. Se girava così com'era, mi rampava la cantunada. Beh, ti devi allargare e poi stringere, no? Col pullman è diverso, anche dalla macchina, perché devi andare incontro a quelli, a quelle macchine che ci sono quando ci sono due file al semaforo, no? Stavamo svoltando lì, tu devi andare addosso alla macchina che è sulla sinistra e poi girare, se no ne rampi la cantonata se non fai così. Perché il pullman le ruote ce l'ha dietro il culo, capito? Non ce l'ha davanti come la macchina. Io così ti sto dicendo. Tante volte infatti da quanto stringono, ne mesciano le macchine. È un macello. Poi, infatti, te la ricordi a Paola, tu? Già, la mia ex. Certo che me la ricordo. A quella lì io gli ho fatto le guide, no, le ho fatte io. Quella lì spuntava in salita senza il freno a mano. Guarda, guidava benissimo, andava a Pratamona da sola con me, tutto qua. Ma a scuola guida l'hanno guardata, non sapeva più guidare. Allora, dimmi tu. Vabbè. Magari, io invece... Liliana l'ha dovuto rifare le guide perché si aveva preso la patente e poi da tanti anni che non guidava e si è dovuto fare di nuovo un po' di guide per riprendere la macchina. Sì. Purtroppo sono cose che succedono, se una non si sente sicura è giusto che le abbia fatte, ma questi istruttori sono dimmi, subito ti bloccano la macchina. A chi tu li bloccava subito il boom, ma non lo lasciava neanche svoltare. Angelo, vai addosso a quella macchina, ha giudito. E poi terza, se no ne rampi la cantonata. E devi dire, è giusto così, devi andare addosso a quella macchina. E no, cioè sono bravi i natali, quello che c'ho io veramente ti insegna a guidare. È bravo Sergio, è mintuato pure a Sassari. Sia Sergio che Andrea sono un bel bravi. Sono mintuati a Sassari. Infatti molti di quelle scuole guida che cosa, se ne vanno da loro molti a fare le guide perché sono bravi. E poi prendi il coso dell'istruttore, mi prendi. La mia ex, per esempio, quando è andata a scuola guida e ha fatto un paio di guide, non sapeva più guidare la macchina. E come spuntava in salita senza toccare il freno a mano e andava da sola a Platamona, tranquilla. Quando è andata a scuola guida purtroppo non sapeva più guidare, come lo spieghi tu? L'istruttore che non è un capo di ghiaccio. Vuol dire la tonta. Ciao Natali. Ciao. Io la verità non ho problemi né di spuntare né con il diesel né con la benzina né niente. Mi ha detto, mi ha fatto i complimenti, dice devi migliorare sulle rotatorie, mi ha detto, devi stare attento. Mi ha fatto i complimenti, dice spuntando, ha detto sei 10. Dice nessun allievo spunta come spunti tu bene con la macchina. Io non ho problemi né con benzina né con diesel, io spunto lo stesso. Non ho nessun problema su quel lato lì, guarda, è 10 su quel lato lì, sono sicuro che se tu mi dai la macchina a Duglia non mi si scuda, se tu mi dai la macchina a benzina a me non mi si scuda, tranquillo, perché so spuntare. Però so tenere bene la destra, però devo migliorare sulle rotatorie perché bisogna stare attenti. Cioè deve entrare nella rotatoria e mettere la freccia poi quando esci, perché a me mi stanno insegnando così, deve essere così, sempre la freccia bisogna mettere quando si gira lì. E poi bisogna ricordarsi sempre la destra, quello che viene da destra ha sempre la precedenza, ricordati quello tu. E se no vieni, vai un paio di guidi con me, se non ti posso va e te lo posso vedere io, non ti filmà, e te la spiego io la rotatoria. Capo, no, l'ho già capita com'è. Peccato che hai 65 anni, se no, se avessi avuto 64 abbiamo se la micidi. C'ho le pin deposito, l'avrei preso con le magnetiche. E li ho compiuti proprio oggi 65 anni. Perché oggi è il mio compleanno che è il 29 e oggi li ho compiuti. 65 e oggi li ho compiuti. Capito? Auguri. Auguri Natali. Sì, auguri. Un anno più vecchio sono, che. Grazie comunque. Auguri Natalino, fa la B. Ciao Giulio. Vai tu drogato, vai. Ciao Natalino. Vabbè, comunque Natali, se quella guidava da sola, poi è andata a scuola guida, non sapeva più guidare, vuol dire che era una bella donna, io l'ho preso così. Ah no, la colpa è dell'istruttore, aiù, si guidava la macchina da sola, cazzo, con me si parava a Platamona tranquilla. Tranquilla, mi lo so cosa vuol dire, sapeva le precedenti, tutto. Va a scuola guida a fare le guide e non ne si guida più. Si aveva paura a guidare la macchina, ma io. Non è così però Natali, uno che sa guidare e basta. Cioè, ha paura perché si è messo il panico, non perché è cosa, dice boh sul panico. Il panico è una brutta bestia, eh. Già lo so, ma secondo me era l'istruttore che non ne serviva. Perché ci sono istruttori che invece di migliorarti ti guastano. Se uno è un istruttore veramente ti insegna a portare la macchina, ti deve insegnare il suo lavoro. Te lo deve spiegare come devi fare e vedi che impari. Io a Ghidara l'avevo imparata, ma di russo. Infatti tutti quelli che ho presentato io, tutti promossi alla prima. Un istruttore bravo ti insegna prima di tutto da fermo. Io ce l'ho sotto casa da scuola guida e tante volte allora sono adesso che c'è caldo col finestrino aperto, c'è la allievo, e l'istruttore le insegna intanto a conoscere tutti i comandi della macchina, e almeno due giorni almeno le spiega tutto quello che è l'interno della macchina, e poi magari incomincia a fargli fare strada anche. Come ti ha fatto a me? Ehi, ciacchi giù. Se ti sto dicendo che non tirava manco il freno a mano quando spuntava in salita la mia ex, cosa già la conosce Gianni, quella lì guidava benissimo, è andata a scuola a guida, non ha più guidato. Vuol dire una bifona, e non ha compreso un granché di chi ti voleva insegnato, se no una che sa guidare guida occhi chiusi in presenza di qualsiasi persona, non è quello il problema. Vabbè, dai, comunque avanti Gianni. Sì, ciao Giulio, ciao. Mi ha fregato un po' tre palpebre, mi hanno fregato. Mi stava soffrendo. Vabbè, dai, comunque buonasera, ne approfitto per salutarti. Vabbè, comunque anche il fatto di guidare è una cosa praticamente che non hanno tutti, saper guidare bene. C'è gente che è anziana e non sa guidare, c'è gente che è giovane e guida bene. Ma poi niente anziana che invece guida ancora bene, come hai detto me. E appunto è soggettiva la cosa, ti sto dicendo questo. Io conosco persone che hanno quasi 90 anni e continuano a guidare, l'unico problema è che ha la patente solamente per un anno, perché dopo una certa età ti rinnovano la patente per un anno solamente, e magari ti danno anche il tragitto che devi compiere, però a guidare guidano tranquillamente. Ma devono avere requisiti psicofisici e morali richiesti dalla legge per poter guidare a quell'età lì. Se hanno qualche malformazione, qualche cosa, non possono farlo, non ne danno. Beh, certo che sì, ed è per quello appunto che ci danno un limite di percorso, mi sembra 15 km, una cosa del genere, è un tragitto molto breve, anche perché loro tengono in considerazione, questa è una persona molto anziana e magari si stanca, o addirittura si può distrarre, oppure si addormenta addirittura, sai, e la pensano così. Il codice della strada penso che sia prescritto anche per queste cose qua. I riflessi non sono più gli stessi, naturalmente, quando uno è anziano ha riflessi più lenti. Ma certo che sì, ma è così, infatti è così. Sì, perché dopo ad esempio gli 80 anni ce l'hai, a 80 anni 2 anni, cioè cominciano da 70-75, cioè ricordo bene, ancora 5 anni, cioè dai 50 in su sono 5 anni, sino ai 70 o 75, se non ricordo bene, poi dalle 75, dai 75 3 anni, poi dagli 80 2 anni e così via, fino ad arrivare a un anno solamente, addirittura con un percorso limitato. Vai Natalia. Infatti è così, a me me l'hanno rinnovata solo per 5 anni la B, perché mi hanno fatto declassare le patenti che avevo, me le ho fatte togliere perché mi toccava pagare un sacco di soldi e se non le sfrutti non ne vale la candela. Allora mi hanno fatto dare la B, però me l'hanno data per 5 anni solo. Fra 5 anni a 70 anni me la abbassano a 3 anni e così via. Sì, ma è così, ma non solamente a te, perché da 50 anni in poi mi sembra che sia 5 anni, cioè sì, da 50 anni 10 anni, da 50 anni in poi 5 anni, se ricordo bene, perlomeno a me avevano fatto così, adesso io ce l'ho per 3 anni, ce l'ho perché avevo superato i 75 anni, e al prossimo rinnovo, che ne avrò 81, allora me lo danno per 2 anni, funziona così io, Natalia. Purtroppo è in base alla legge dell'età delle persone anche, no? Vai Gianni. Ma è anche giusto, per dire, mio suocero è arrivato a una certa età, a 75 anni, ha detto a una certa età non si hanno più i requisiti, eccetera, eccetera, se abbiamo i rifresci che non sono più gli stessi e cosa, ha preso, ha versato la macchina e la patente e tutto quanto, non ne ha voluto più sapere di guidare. Beh certo, se uno non si sente più in grado è giusto che faccia così, che metta da parte la macchina, è ovvio, è normalissimo, però ci sono persone, ripeto, che anche a oltre 85 anni guidano molto bene, perché io una persona che conosco che ha 88 anni per l'esattezza compiuti e ti posso garantire che guida molto ma molto bene, va piano, prudente, mantiene le distanze, tutte queste belle cose qua, ma comunque si sa, c'è differenza sempre da soggetto a soggetto, no? Ma è natalino. Sì, infatti bisognerà passare una sia sana, che si rasentia di guidare. Io se non mi rasento non guido. Hai visto il suo cielo di Gianni? Quello era poliziotto, quello lì ha visto che non aveva più i requisiti e si è versato la macchina, perché non se la sentiva più di guidare. A una certa età, quando uno non se la sente, è giusto che la molli la patente. Sì, ma è così, è una cosa giusta, una cosa ben fatta, anzi c'è da apprezzare una persona se non si sente più in grado di poter sopportare il peso della guida, allora è giusto che si metta da parte e lasci fare a chi sa guidare, beh, è normale, no? Antonio, ci sei ancora? Sì che ci sono, ma è giusto che sia anche così, però se uno non se intendi, no. Non guida più, certo, comunque ho visto gente di 80 anni che ancora già guidano bene, ho visto gente di 60 che ancora non c'è, che è come se ne andà a coipi, per dire, dipende come uno si trova, dipende sempre le condizioni di salute. O giù, se devo dire una cosa, quando tu parli c'è un rumore, adesso non si capisce se è portante, ma non ti fa niente, qua non ti fa nulla. Si sente non so se voi lo sentite, ma lo sento. Non lo so, già, non lo so, forse è il microfono, forse è l'alimentatore, no, non te lo so dire. Me l'avevano fatto notare qualche giorno fa, una ventina di giorni fa più o meno, l'ultima volta che ho acceso, avevo fuori stamattina che poi mi sono sentito con Natalino, ma una ventina di giorni fa, poi da allora che non modulavo più, dunque non me l'avevano fatto sentire, ma non so da cosa dipende, forse l'alimentazione, non so dire, la verità. A due turni, prima fa buu, poi fa pi, non lo so già, non so cosa dirti, perché questo è un microfono normalissimo, tranquillo, pacifico, sto andando con un watt di potenza come vado solitamente e non so cosa dirti, sto usando l'alimentatore da 13,8, quello a trasformatore, non è quello switching, no? Infatti avevo avuto anche quel dubbio, allora ho cambiato l'alimentatore, ma tu mi stai dicendo che c'è sempre, non so cosa dirti già. Magari qualcuno che tenta di mettere la portata non ce la fa passarti, se tu ti stai la bicca del cervello. E vabbè, sembrano portantine piccole, capito? Sembrano delle portantine, ma non può essere l'apparato, perché ti ho sentito ci vi bene. Oh, che è troppo basso il wattaggio, prova a alzare un po' il wattaggio. Questo qui è un watt, basta già, non aumenta niente, questo qui è un barattino che dà un watt e basta, non posso né aumentare né abbassare, solo che il microfono normale, avevo provato anche un altro microfono, ma era la stessa cosa, non cambiava niente, sì, un po' migliorava come potenza del radio, però il rumorino c'era, dunque non so cosa dire, la verità. Tu Natalia, anche tu senti questo rumore? No, adesso io non l'ho sentito questo rumore e non ti ho detto niente per quello. Non ho sentito nulla, la verità. Magari forse c'è il volume troppo basso, non lo so. Ok. Il segnale è sempre il solito, è il mio. Sì, io registro sempre con lo stesso segnale, per cui la potenza è sempre quella, che appunto quello che ti stavo dicendo, un watt, niente di più, poi tu qualche cosentina la sento, ma poca roba. Guardate che io sento di tanto in tanto come delle scariche elettriche, no? Infatti anche quando non sta parlando nessuno ci sono dei picchi di segnale che aumentano vistosamente, ad esempio da un segnale che io magari sto registrando intorno ai 4 di QRM, con questi picchi che arrivano anche a 7-8, sarà quello, non lo so, forse tipo scariche elettriche, mi Gianni. No, c'è una portante lontana, mi capito, giù, fa prima bu, fa pi, bu, pi. Vabbè, quello perché ho un segnale basso io, cosa vuoi che mi sembra ricevere, Santiago 7-8, allora magari il QRM stesso può dare fastidio alla mia radio, capito già. Ma cos'è una radio antica? Una radio da un fatti, niente di particolare, è un giocattolino, una cosa da quattro soldi proprio, veramente, no? Niente di particolare. E che baracchino è portatile? Non è portatile, già è da stazione fissa, vabbè, si può anche mettere in macchina volendo, però è praticamente a livello di portatile, mi più o meno così, dai già. Ho capito. Non pensavo che tu l'avessi abbassato tu il wattaggio, capito? Che fosse l'apparecchio col wattaggio regolabile che l'avessi abbassato tu. Non pensavo che fosse solo un watt. Avanti, Natali. Se si poteva regolare l'avrebbe regolato per uscire un po' più forte. Io per esempio il mio non si può regolare perché sono 4 watt fissi. Per esempio dici che arrivi Santiago 0 a Usilo, però la radio era buona. Ieri mi ha detto così Uranio, che arrivavo Santiago 0. Sai cosa mi sto prendendo in guida? La Kia. Gianni, quanto ti arrivo? Santiago 7-8, quanto? Massimo 9, non di più, non credo. Prova a vedere. Sì, ti metto solo la portante, così vedi meglio. Vai. Sì, sono quasi 9, dai, 8,5. Sì che vedi bene, basta un po' di QRM per dare fastidio, ma è più che normale. No? In questo periodo, tra l'altro, c'è anche in tanto, a momenti c'è anche un po' di propagazione, o perlomeno c'è qualcuno che parla in FM, visto che adesso qualcuno si è preso l'abitudine di parlare frequentemente in FM, sempre su questo canale, e può essere anche quello, già. Cappa, sicuramente, pure a me mi si arriva in discorso il mio, Giulio, all'incirca così. La conoscete la Kia come macchina? Quella lì sto guidando. Poi c'è la telefonata FM. Lo so, FM magari più pulito anche, però l'FM ha il problema che se c'è un ostacolo davanti arriva meno lontano, ecco, tutto lì, ma comunque tanto non c'è più nessuno in frequenza, quella, ormai non ho più niente, mi avete giocato nel buco. Per cui no, non mi interessa più di tanto, quando si blocca questo ho finito tutto, stacco l'antenna, stacco tutto, intanto non mi interessa più, i miei 50 anni e oltre di frequenza me li sono fatti, per cui va bene così, tanto più te lo sto dicendo, erano 29 giorni che non stavo più parlando, proprio perché non sentivo nessuno, per cui va bene lo stesso, stamattina ho sentito Antonio, ho sentito un attimino e anche a Natalino, vai a tu. Stamattina sono entrato da su, sono entrato da deposito, arrivi molto più basso, vedi? Qua arrivi 8, qua arrivi 4, 5, non di più. A me 9,5 Giulio mi arriva qua. Hai venduto tutto Giulio? Prova qua Giulio a vedere, io ho acceso tutto per far caricare il condensatore che era un bel po' spento. Fa un passaggio giù. Ok, aspetta, lascio solo la portante così lo vedi. Poi ne ho un altro, ma non funziona in trasmissione, non so cosa sia successo fino a poco tempo fa. In ricezione va bene, ma in trasmissione non funziona. Per cui va bene. Non so cosa dire. Vai Lu. Ah, vedi, io sono Giulio. Allora qua sto segnale a portante muta è 9,15 modulati 9,20. Conta che io come esco dal terrazzo lo vedo di punti, capito? Ho ottimo segnale, va benissimo. Per avere un watt e mezzo. Dai, vi sto sempre ascoltando che sto ripassando palamito qua. Ok, ciao, va bene, vuol dire. Quello che dico, poi da un punto all'altro si sa, c'è sempre differenza anche di segnale, eccetera. Pure considerate se che l'antenna che c'è un posto in basso, no. Non mi sto curando più di niente, non ripeto, ormai mi sono stancato tutto sommato, anche perché non sento mai nessuno, qua tutte le volte che attendevo, sia di mattina, non c'era mai nessuno, ma tu una cosa sto a fare di prendere tempo, faccio altre cose, mi faccio quattro passi soprattutto, che è la cosa, che forse è la cosa migliore che io possa fare, almeno mi muovo, perché sono già due anni praticamente senza muovermi molto. Quando ha iniziato il Covid e allora esco di rado e adesso sto cominciando a uscire di più, ho capito? Già, vai. Io molte volte ho acceso, qualche volta si dice ha risposto Claudio, ma da lì pure non ci muoviamo, non entra nessuno, eccetera, e poi lui se ne va via, deve fare qualcosa e quindi rimango da solo e spengo tutto. Ah, poca gente, proprio sta entrando poca gente, di mattina non sto entrando, la verità, ma di sera qualche volta lo accendo, la mattina c'è altro da fare, di più importante. Qualche volta mi è capitato di sentire dei fischietti oppure che mandano la portante, poi li inviti a parlare, non parlano, e allora cosa sto a fare? A vedere le cretinate che mi arrivano, magari la portante così col fischio, eccetera. Venite avanti e non rispondo, ma ci picchia, la lasciamo perdere, vai la salita. E infatti anche io non stavo entrando per quello, mettono la portante, fischiano e poi non parlano, cosa? Infatti ero un po' di tempo che non entravo anche io, anche perché ero impegnato in altre cose. Appunto, l'ultima volta che ho parlato saranno già, ero già prima una ventina di giorni, no? Che non ho trattato bene di sera, un 10 giorni fa più o meno, non penso che sia una cosa del genere, avevo sentito a Gianfranco perché c'era questo che ha fischiato e ho fatto avanti il fischio e mi ha risposto Gianfranco, ma non era lui però che fischiava, quello del fischio non mi aveva risposto, vai già. Adesso per dire ti stanno mettendo la portante quando parli. Vabbè, sì. Tengo un mattesse. Sto fatto, cosa vuoi fare? Lasciamolo fare. Non so la faccia, ma chi se ne frega, intanto si dovrebbe far visitare da uno, un buon medico per fare un po' di cervello sano. Capa. No, qua io lo sento lo stesso a Giulio, Io non lo sento vibrato, beh. Sai che me lo fa, ma che se ne frega? Non me ne frega proprio più niente. Io lo sento, tu mi senti a me? Senza problemi. Qua non esiste nessuno, solo Gianni. Ciao a tutti, corretti per me, buonasera. Ciao Claudio. Cosa qua stai dicendo? Ti ho detto che qua non passa nessuno, no, perché entra la portante, l'ho già detto l'altro giorno, è fortissimo, sento solo Gianni sotto la portante, gli altri siete completamente zero. Ah, stato in via Milano e attacco in Savezia, a vedere che passo. Burresi, Ronaldo Babba, noi lo stato cardinale. Ciao Anto, ciao a tutti, divertitevi, QRT, bye bye. Ciao Claudio, ciao, la benedizione ce l'hai data. Ciao, ciao Claudio, sua eminenza che... Meglio niente, Gianni, lascia perdere, ciao, ciao. Ciao. Avanti a tu. Gamba, gamba. Ti stavo dicendo poco fa che a me, io ho usato il Volkswagen T-Roc, ma non mi piaceva. Sto usando la Kia, allora sai quanto va bene quella macchina? Un bombone. A me piace molto la nuova Dacia, mi sono seduto anche dentro, molto bella, ma veramente bella come macchina, c'ha tutto quanto, il tablet, il radio, c'ha il bluetooth, c'ha tutto quanto, e poi è silenziosa, ho viaggiato tranquillamente, era una bella macchina, c'era un amico mio. Chiappa, vabbè, andava pure vista, ma sono seduto nel Volkswagen T-Roc. Tutti dicono è bella, a me non piace. La verità, ve l'ho aggiunto subito Andrea, a me questa macchina non mi piace. Dammi cosa, la Kia, voglio provare quella. Cazzo, ho provato la Kia piccando, quella piccola. Certo Celestina, cazzo quanto va bene. Guarda, no, io voglio questa. Le marce entrano, una cosa micidiale. O è quella macchina lì, ma che cosa di strano. Quella macchina purtroppo entra in mano a gente che lo sa guidare e che deve imparare, quindi bene o male qualche difetto lo faranno, perché normale, mettendo le marce sbagliano, grattano, fanno tutte queste cose qua, gli alunni c'è poco a fare, non è così giù. Sì, la prima cosa che sputtanano è il cambio. Vabbè. No, a me quella Kia, io voglio questa la macchina. Ho detto, ho provato quella là, ma mi sono capitato subito. No, dico che è a posto la macchina. Ha provato il Volkswagen, la T-Roc. Ma a me, Disney bella, bomba. A me non mi piace. Cazzo, vado a provare la Kia, una bomba, perfetta. Quella macchina, ha detto io voglio questa per fare l'esame, non mi darsi macchine che mi... cioè chi sa a me, chi sa a me, che gli ho detto mi fa cagare, punto. E io ne aggiungo le macchine, sono quasi sempre ferme, non le sto usando quasi per niente. Due macchine ferme, queste due nuove, una vabbè, ha parecchi anni, ne ha fatto 10 anni, ma è nuova perché ha appena 43.000 km. L'altra è appena 3 anni, ma è quella nuova, quella è una, praticamente una, un trucco praticamente, dai, si può considerare un trucco. Io mi ricordo che c'avevi una Citroen. Lascia nominalmente, non l'ho mai vista cosa è. La Citroen è nuova, adesso la vedi, nuova, non c'è un graffio. Perfetta, in tutti i sensi, c'ha appena 43.000 km originali, pensa un po'. E l'altra è nuova, l'altra è una SUV, dunque è ultima, molto, ultima macchina, una Ford. Sì, ho capito, quella più, un po' pochettino più tosta, più grossa. E io adesso inizialmente, sto pensando quando sarà che mi bisogna la patente, sto pensando di prendere una Panda, una macchina così, o prendo quella del mio suocero. No, tanto non mi puoi guidare macchine strane, quindi cosa me la compare già fa? Una macchina così, una macchina così, un po' più economica, capito? La Panda è una macchina che va molto bene, comunque non si meravigliare, anche se è una macchinetta, però è una macchina che va molto bene. Chi ce l'ha è contento di averla perché funzionano molto bene. Vai Gianni. La nuova a me. Quella precedente all'ultima che è uscita, io ho provato, e va molto bene. Vai Gianni. Vabbè. Adesso per il momento io sto guidando poco. Quindi mi basta la mia, è nuova, c'ha 22.000 km, la mia nuova, c'ha 4 anni, c'ha 22.000 km. Anni, la mia va 12 anni, la Citroen, è a 43.000 km appena, si può immaginare, se la vede nuova, dentro e fuori, perfetta, sempre bella lucida, fiammante, per cui va tutto a posto, silenziosissima, non c'è un rumore, non c'è niente, va veramente bene. L'altra invece ha 3 anni solamente, quella lì ha 18.000 se ricordo bene, in 3 anni, ma quella cammina di più. Vabbè Giù, ma tu devi considerare che io la mia l'ho usata anche per lavoro, poi vabbè quando non sono più andato a lavorare l'ho smesso, però sin quando ho lavorato l'ho usata 4 volte al giorno per andare a lavorare. Adoia un bombon, cazzo. Io mi sono seduto ma sei stato addio dentro quella macchina. Comoda proprio, cioè gli è circolazioni qua, se sto comodo io vuol dire che la dice lunga, cioè perché se non sto comodo dentro una macchina non mi so com'è, e tu ci sto proprio bene, cazzo, Perfetto. Sì, è spazioso, dai, spazioso. Se avessi saputo che c'era la Station Wagon, non mi sono informato bene, mi avrei preso la Station Wagon, ma va bene anche quella, perché è molto campietta che porta bagagli. E la macchina è lì, ma non era il caso comunque, avete considerato che quella che ho funziona benissimo anche se ha 43.000 km e 12 anni di vita. Vai Natali. Sì, infatti, l'unico che va la macchina vecchia sono io, che è del 2001, però c'ha pochi chilometri, 143.000 ne ha. Ma è sempre bene, ma va. Prima gliela grattavo, adesso purtroppo la prendo solo in casi di estrema necessità. Ma tu ti hai pigliato un 1009, la macchina di Ricchi. 1009, turbo diesel, così era la macchina di Ricchi. La mia c'ha più di 20 anni adesso. Ma i motori sono indistruttibili, mi Natali. Cazzo, funziona con la meraviglia, mi. Cioè, no. Cioè, quelli lì quando erano uscite erano perfette, erano, mi. Cioè, li fai le cose che devi fare, non hanno mai problemi, mi. Sono rocce, sono. Dimmi, sa. Io già lo so che sono rocce. E poi la mia sempre tagliandata di brutto, perché il diesel se non gli fai la manutenzione dura da Bacca a Sant'Ivano, invece la mia sta sempre funzionando. Una volta solo la frizione gli ho cambiato e buco. Beh, no, ma dico tranquillo che quelle vanno sempre bene, no? Non ti date dei problemi mai. Sono trattori, andano sempre. Basta che li fa la manutenzione e vanno bene. Avanti già. Io nella Hopper non gli ho mai cambiato la frizione, né frizione né marmita. L'unica cosa che ho cambiato è la sonda lambda, perché si era intasata e l'ho dovuta cambiare. Poi per il resto non gli ho cambiato nulla, solo quella lì, la centralina, perché me l'ha fatta partire lineare, sicuramente. Vabbè, ma tu gli avanti a Burusa sarebbe su d'ora, dove la usavi la frizione, ho già. Cioè, era poco il coso. Se la usi in città, vedi che la giambi, è come. Va bene, dai, ora vado a mangiare, ce la risentiamo. Io la usavo anche in città, Antu, ciao, ci sentiamo. Ciao Antu, ci sentiamo. È la mia M26, quella nuova, io sto guidando la macchina, cioè ho la macchina in più di 54 anni praticamente, da quando avevo preso la patente per la macchina, no, l'ho sempre avuta, ne ho avuto diverse, ma non le ho mai cambiato io pressione, Gianni, quella è una questione di piede, vai Natali. Che Natali l'ha presa già usata la macchina, quindi magari anche il vecchio proprietario non l'ha trattata bene. Appunto, dipende, dal fatto della pressione dipende anche il tipo di guida che uno ha, si sa, è ovvio. Poi naturalmente ci sono quelli che, ad esempio, tanto per fare un esempio, prende il semaforo quando si è in salita e mantiene la macchina con la pressione. No, non va bene così, il freno a mano si deve usare, e il freno a mano si schiaccia anche il pulsante, perlomeno a me mi avevano insegnato così, prima di tirare il freno a mano bisogna schiacciare il pulsante, perché se no si rovina l'ingranaggio, si rovina, e a un certo punto bisogna cambiarlo, perché non tiene più il freno a mano. Vai già. Io invece che con la mano uso il freno a pedale, e poi quando devo ripartire metto la marcia e parto. E vabbè, tutto dipende dal modo di guidare che ha. Io sono seduto una volta con un amico e faceva pietà guidando, lo lasciamo la macchina sforzando. Oh!